le due fonti che vanno incrociate, visto che noi siamo di fronte sicuramente a flussi misti, dove chiaramente su queste, appunto, all'interno di questi flussi ci sono situazioni molto diverse fra di loro, ma come è chiaramente dimostrato dai dati, siamo di fronte soprattutto a un numero rilevante di persone che fuggono da una situazione di guerra, di persecuzione, e che chiedono protezione internazionale in Europa. Allora, le fonti che citavo, quindi il diritto del mare, a queste dobbiamo aggiungere anche la Convenzione europea e la Convenzione di Ginevra, ma poi arriviamo a spiegare perché stiamo concentrandoci anche su queste fonti. Però prima facciamo un passo indietro, perché se vogliamo un ruolo fondamentale e ai noi adesso vizioso, lo gioca il regolamento Dublino. Il regolamento Dublino fondamentalmente dice che il migrante che tocca, il primo paese toccato dal migrante è il paese in cui il migrante deve eventualmente, se vuole, se ha titolo, esercitare il suo diritto d'asilo. Questo crea chiaramente per i paesi di frontiera, di prima linea, tra virgolette, evidentemente una pressione molto molto forte. Ci sono stati negli anni vari tentativi di cambiamento, proposte di cambiare questo regolamento Dublino, al momento però la questione è ferma. Gianfranco Schiavone. Sì, quello che devi fare è corretto, se salvo l'ultima parte, cioè veri tentativi di cambiarlo fino ad oggi non ce ne sono stati. La consapevolezza della necessità di un nuovo paradigma giuridico completamente diverso è emersa, insomma, nella Commissione europea e nel Parlamento solamente nel corso degli ultimi mesi, e adesso in effetti sono depositati al Parlamento europeo dei testi e sono in discussione dei testi che modificano questo principio, che è un principio che nelle diverse, il regolamento è stato modificato varie volte, ma di fatto il principio che lei giustamente ha citato risale al 1990, cioè un'epoca storica completamente diversa, ed era finalizzato a un obiettivo che tutti possono comprendere, e cioè a cercare di riequilibrare una presenza fra gli stati del centro-nord dell'Unione Europea e gli stati del sud, o che avevano comunque confini esterni all'Unione, dove praticamente i rifugiati non esistevano. Oggi non solo questa esigenza non c'è più, ma appunto l'applicazione rigorosa del regolamento finirebbe per convogliare appunto sugli stati di frontiera praticamente tutte le domande d'asilo, cosa che è impossibile. Quindi il vero motivo della crisi su cui ci dibattiamo è questo non detto e non discusso, no, dalla stampa, regolamento Dublino, ed è lì che la politica dovrebbe concentrare i propri sforzi, cioè andare a modificare le regole europee per attuare una redistribuzione delle presenze dei richiedenti asilo sulla base del principio di solidarietà indicato nel Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, e non già accanirsi nei confronti di coloro che fanno i salvataggi in mare o scegliendo come strategia la diminuzione complessiva degli arrivi, rischiando di violare la Convenzione di Ginevra, perché il problema esiste ma va affrontato in maniera adeguata. Sì. 349-238-6666 per commentare e porre domande anche a Gianfranco Schiavone, che lo ricordo, è consigliere dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che ci sta dando una mano a capire qual è l'apparato giuridico che disciplina tutto quello che sta avvenendo nel Mediterraneo, compresi anche i salvataggi. Primo punto fermo, il regolamento Dublino, che fondamentalmente addossa ormai all'Italia, perché la rotta principe è quella, sulle spalle tutto il peso dell'immigrazione, è un regolamento che andrebbe cambiato. Poi c'è un altro punto, e mi ricollego al codice di condotta dell'ONG, che vieterebbe, salvo pericolo imminente, l'ingresso da parte delle navi dell'ONG in acque territoriali libiche. Gianfranco Schiavone, anche su questo punto una menzione, perché qua insomma entriamo veramente in chiaroscuri che è bene svelare. Sì, certo, il codice di condotta è stato presentato dalla stampa come se si trattasse di una legge, ma non è una legge, visto che, come tutti possono capire se ci pensano un momento, non è neppure un regolamento attuativo di una legge. In realtà che cos'è? In realtà è molto poco, è ben poco. Avrebbe potuto essere un protocollo d'intesa per regolare, diciamo, non per introdurre disposizioni nuove, che non è materia del codice di condotta, per l'appunto, come dice la parola, ma per disciplinare meglio un'attività pratica tra appunto le autorità statali e le organizzazioni umanitarie. Però è evidente che un protocollo d'intesa può funzionare solo se c'è un'intesa. Laddove l'intesa non c'è, il codice non può imporre norme, appunto, perché non è uno strumento giuridico adeguato. Quindi se ne è molto parlato, ma a ben guardare sostanzialmente si è parlato di nulla da un lato, ovvero si è parlato di disposizioni, per così dire, disposizioni tra virgolette, contenute in questo codice di assai dubbia legittimità, come quella che lei ha citato. In realtà la Convenzione delle Nazioni Unite sul mare del 1982 è molto chiara, cioè in realtà innanzitutto l'Italia non può vietare l'ingresso in acque territoriali libiche, perché questa è di competenza della Libia, come è del tutto evidente, ma la stessa Libia non può negare quello che si chiama il transito inoffensivo di imbarcazioni nelle proprie acque territoriali, e soprattutto non può vietare l'azione di soccorso nei confronti appunto delle imbarcazioni in difficoltà, perché tutti gli stati sono tenuti innanzitutto ad attuare quelle che sono essenzialmente il dispositivo dato da ben tre convenzioni, quella che ho citato appunto sul diritto del mare dell'82, la convenzione sulla sicurezza della vita in mare del 74, questa convenzione SOLAS e la convenzione SAR del 69, che in maniera diversa ma sostanzialmente tutte prevedono come principale e unico obbligo quello di mantenere un servizio di ricerca e soccorso in mare, e obbliga anche i privati ad attivarsi per, in caso di segnalazioni da qualunque fonte, affinché l'imbarcazione in difficoltà venga assistita il prima possibile. Sì. A me una cosa che ha stupito particolarmente, dopo le immagini diffuse di quell'operazione di salvataggio della nave Juventa, in cui molti commentatori in talk show televisivi dicevano: ma insomma, quei barchini non erano in imminente pericolo di affondamento, e quindi si è trattato di un vero e proprio servizio taxi. Io, Gianfranco Schiavone, ho un'opinione su questo punto, che è però suffragata da una serie di ricerche e anche testimonianze che ho potuto vivere sul campo. In tantissimi di questi canotti o barconi sono presenti bambini, sono presenti donne che sono state stuprate molto spesso per mesi, sono presenti persone ferite, molto spesso hanno ancora proiettili nelle gambe, perché forse non tutti sanno, ma i trafficanti libici obbligano le persone a partire. Ho intervistato e ho conosciuto migranti che a un certo punto mi dicevano: io quando è stato il momento di salire sul barcone ho avuto paura, perché quel canotto evidentemente non avrebbe sopportato il mare, ho cercato di scappare e hanno sparato. Evidentemente siamo di fronte a persone vulnerabili, non c'è l'imminente pericolo di affondamento forse in quel momento, però lì è questione di ore, e comunque sono persone meritevoli di protezione. Sicuramente entrambe le cose. Innanzitutto, quando parliamo di pericolo in mare, non intendiamo l'imminente pericolo, ma la valutazione, che può essere fatta in maniera molto oggettiva, se quel natante è in grado di navigare, o senza necessariamente sapere se è a rischio di affondamento fra un'ora, fra due ore o fra dieci ore. E noi parliamo di barche che sono tutte non in grado di affrontare quella navigazione, quindi di per sé sono in condizioni di pericolo. Quindi questo dibattito francamente non ha nessuna, è veramente piuttosto urticante, per così dire. Allora, e poi insomma, l'aspetto che diceva lei, noi parliamo di persone vulnerabili che si trovano a bordo di queste navi, di questi natanti. Sì. Allora, siccome un ascoltatore, credo fosse Tonio, mi chiedeva quanti degli arrivati recentemente hanno chiesto asilo, nel 2016 la cifra è 123.000. Sì. Allora, anche qui la distinzione tra migrante cosiddetto economico e richiedente asilo a volte ha delle sfumature. Se avremo tempo ci andiamo, perché certo, il tema... Ho valito sicuramente una cosa per evitare equivoci: questa distinzione noi la possiamo fare solamente nei momenti in cui le persone fanno la domanda e la domanda viene esaminata. Nessuno può fare un esame di qualcuno che non c'è, come ben si comprende. Quindi è chiaro che per garantire il diritto d'asilo l'unica possibilità è garantire l'accesso alla domanda di asilo. Sì. Allora, tra gli ascoltatori c'è già qualcuno che fa levate di scudi, c'è chi dice diritto di non entrare in Europa, perché al di là delle normative in Europa, in Italia soprattutto, non c'è spazio fisico né sociale né economico per ricevere centinaia di migliaia di persone completamente improduttive che gravano sul sistema sociale ed economico prelevandone risorse senza dare alcun valore aggiunto. Un messaggio molto lungo, questa è la sintesi, rispondo tra pochissimo. C'è chi dice invece, con evidente tono sarcastico: ma perché parlare di soccorso in mare, è ridicolo, sarebbe più onesto mandare una motonave di Costa Crociere e imbarcarli a riva. Allora, siamo con Gianfranco Schiavone, fra altre cose consigliere di AGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. C'è un altro punto fondamentale che si chiama Libia. Da più parti si dice, forse non abbastanza, che chiunque transiti dalla Libia è meritevole di una qualche forma di protezione, perché Le carceri, i centri libici sono luoghi, lo avete sentito anche dal GR, dove avvengono violenze di ogni tipo, e quindi il fatto stesso che io esco dal teatro libico in qualche modo mi dovrebbe garantire una qualche forma di protezione. A corroborare questa tesi c'è il fatto che la Libia non ha mai ratificato la Convenzione dei diritti umani di Ginevra, quindi da questo punto di vista è un partner, come dire, che dal punto di vista del diritto internazionale non è un partner affidabile. Infatti la Libia non è, oltre ad essere uno stato in guerra civile, va ricordato, è ad essere in realtà una nazione che non è ancora neppure una nazione, perché è divisa profondamente al proprio interno, è una zona nella quale un cittadino di un paese terzo non gode di nessun diritto, neanche dei più elementari diritti, insomma, che noi riconosciamo nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e soprattutto non gode della possibilità di neanche di chiedere protezione, e naturalmente non di ottenerla, perché appunto nessuna normativa c'è. Quindi un rifugiato è privo di qualunque protezione in Libia, e in Libia non può essere rinviato in nessun modo. Questo è il motivo per cui sono proibiti, e sono stati proibiti anche nel Libano da numerosissime sentenze della Corte Europea sui diritti dell'uomo, ogni forma di rinvio di cittadini stranieri verso la Libia, proprio per le condizioni di impossibilità di protezione e per il rischio elevatissimo di esposizione a torture e a trattamenti disumani e degradanti. Fra l'altro questa tesi è stata poi ripresa, è stata ieri ripresa da una dichiarazione del vice ministro degli esteri Mario Giro, che ha fatto venire un po' di mal di pancia al governo italiano, perché Giro ha detto: tenere i profughi in Libia è come tenerli in un inferno. Chiaramente, come immaginate, è stata una dichiarazione che ha spaccato la compagine governativa e ha creato non pochi malumori. Cerco di rispondere a una delle domande degli ascoltatori, 349-238-6666, lo dicevo prima, che dice: noi non ce la possiamo fare, noi Italia e noi Europa, perché il peso economico di queste persone, cito l'ascoltatore, che non fanno nulla, è un peso insopportabile. Vi consiglio di leggere, fra i vari siti che fanno fact checking, cioè che vanno a verificare le dichiarazioni di politici o di giornalisti per dire ciò che è vero e ciò che non è vero, e nel dibattito sull'immigrazione ce n'è tanto tanto bisogno, vi consiglio il sito dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale, che ha fatto un dossier molto molto interessante in cui in 12 punti va a verificare alcune delle come dire, narrative più ricorrenti, tra cui appunto questa: rifugiati e richiedenti asilo pesano sulle tasche degli italiani. Secondo ISPI è vero sul breve periodo, mentre sul lungo periodo dipende da quanto riusciremo a integrarli. Sto leggendo testualmente il testo appunto del think tank italiano. Nel breve periodo è innegabile che i richiedenti asilo rappresentino un costo per le casse dello Stato. Nel 2016 l'Italia ha speso 3,6 miliardi di euro per i soccorsi in mare e l'accoglienza, e nel 2017 questa cifra dovrebbe salire. Però l'Unione Europea aiuta l'Italia in due modi, stanziando risorse che nel 2017 hanno raggiunto quota 750 milioni. Allora, gli altri messaggi, sempre 349-238-6666, vediamo, sono veramente tantissimi. C'è chi dice: tutte le persone deboli e vulnerabili devono essere aiutate, ma perché deve farlo l'Italia? Se deve farlo l'Italia, perché aiutare solo quelli che arrivano dal Nord Africa? Beh, innanzitutto perché la rotta nordafricana è l'unica che al momento è realmente aperta. E mi ricollega a un'altra domanda di un ascoltatore che diceva: ma in Grecia non ne arrivano più. No, perché complice l'accordo tra Unione Europea e il governo turco, Erdogan fondamentalmente ha bloccato quelle partenze che 2 anni fa, lo ricorderete, avevano messo in crisi le isole su tutto l'Egeo. 349-238-6666, continuate a commentare, cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Siamo sempre con Gianfranco Schiavone, e con lui vorrei toccare un altro punto, perché abbiamo parlato di Libia e c'è una definizione che nel codice del mare è importante, a proposito di salvataggi eccetera, che è la definizione di porto sicuro. Stressiamo ancora una volta questo concetto, perché la Guardia Costiera Libica nelle ultime 2 settimane ha salvato, o meglio ha riportato indietro 1100 migranti. Tripoli o Zuara sono considerabili porti sicuri dal punto di vista legislativo? In realtà il porto sicuro deve avere 3 caratteristiche, cioè un luogo dove la sicurezza dei sopravvissuti e la loro vita non è più minacciata, un luogo in cui le loro necessità primarie come il cibo, l'alloggio, le cure mediche possono essere soddisfatte, e dove può essere organizzato il trasporto verso la destinazione finale, diciamo, se tratta di cittadini di paesi terzi. Ora, nessuna di queste 3 condizioni avviene in Libia, ma soprattutto non avviene la prima, cioè la sicurezza delle persone sopravvissute non solo non è più minacciata, ma per l'appunto restituiamo queste persone a una condizione di violenza e di tortura. Quindi tanto che alcuni addirittura preferiscono morire piuttosto che essere rimpatriati in Libia. Quindi parliamo di un esempio limite di non luogo sicuro. Allora, prima di riassumervi le tre rotte principali che portano in Europa, rispondo a un altro ascoltatore che dice: scusate, dite i paesi non in guerra, perché questa del migrante economico è una favola che deve finire. Basta vedere Viaggiare Sicuri, l'Africa è a ferro e fuoco. Anche questo non è esattamente vero, ci sono vaste zone dell'Africa che sono assolutamente pacifiche, ma questo mi dà il desto per entrare meglio nella definizione di migrante economico. Sono reduce da una lunga missione in Nigeria. Vi assicuro che, anche se è vero che la maggior parte dei nigeriani peraltro viene proprio dal sud della Nigeria, lì non vi sono guerre, vi assicuro che il livello di corruzione, di povertà e di impossibilità di arrivare a fine giornata è tale che è comprensibile che molte persone decidano di tentare la sorte, di affrontare i rischi, anche la possibile morte, pur di provare ad arrivare in Italia. Poi possiamo aprire il capitolo della narrativa europea che viene anche coltivata dai trafficanti, da una certa immagine per cui l'Europa è sempre vista come un Eldorado, cosa che evidentemente non è più. Questa narrativa è ancora molto forte e c'è un livello di consapevolezza molto spesso tra i migranti subsahariani che è molto molto basso. Su questa cosa, per esempio, ci sono progetti proprio in Africa che tentano di spiegare al migrante quali sono i pericoli e a cosa va incontro. Allora andiamo a sentire quali sono le tre principali rotte che portano in Europa e poi torniamo con lei, Schiavone. Esistono tre rotte per raggiungere l'Europa via mare: la rotta occidentale, la rotta centrale e quella orientale. Attualmente la rotta più frequentata e con più emergenza è quella centrale, cioè quella dalla Libia all'Italia. La rotta orientale oggi si può considerare chiusa. In Grecia, infatti, se nel gennaio 2016 sono arrivati più di 5.000 migranti, alla fine dell'anno, dopo l'accordo UE-Turchia del 20 marzo, sono sbarcate 330 persone. Le barche che trasportano i migranti verso l'Italia partono da Algeria e Turchia con circa 7.000 arrivi, dall'Egitto circa 10.000, ma soprattutto dalla Libia, con quasi 163.000 sbarchi. Praticamente il 90% delle imbarcazioni che trasportano i migranti in Italia parte dalla Libia. A intraprendere questi viaggi sono per la maggior parte uomini, circa l'82% del totale. E per la stragrande maggioranza delle persone, i motivi che li spingono a lasciare il proprio paese di origine è dovuto a discriminazioni, mancanza di sicurezza e motivi familiari. Solo dopo queste motivazioni compaiono le ragioni di tipo economico. Dossier immigrazione al centro di questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. Siamo con Gianfranco Schiavone, consigliere dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Ci ha raggiunto anche Francesca Mannocchi, giornalista freelance, Sky TG24, Al Jazeera, Middle East Eye, fra gli altri. Francesca, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stai con noi perché intanto vado a rinforzare la risposta che dava un ascoltatore che chiedeva quanto spendiamo per i migranti. C'è un'altra fonte molto interessante che vi consiglio, che è pagellapolitica.it. Vi dicevo, purtroppo nella grandissima nebbia che viene prodotta sul discussione immigrazione, fare fact checking, cioè andare a verificare chi dice cosa e se è vero quello che dice, è molto importante. Nel 2017, nella peggiore delle ipotesi, l'Italia spenderà 46 miliardi di euro per accoglienza e gestione migranti, vale a dire lo 0,55% della spesa pubblica. Sempre secondo Pagella Politica, non è vero che l'Europa ci mette solo 100 milioni, perché nel complesso l'Unione Europea destina per fronteggiare la crisi migratoria oltre 17 miliardi di euro nel periodo 2015-2017, di questi 10 miliardi per Siria e Turchia e 281 milioni per Frontex, ma su Frontex dovremmo dedicare tutta un'altra puntata di Nessun Luogo è Lontano. Allora, prima di dare la parola a Francesca Mannocchi, che la Libia la conosce bene, l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, una puntata tutta dedicata al dossier migratorio. Devo correggermi, ho detto che l'Italia spenderà 46 miliardi di euro per soccorso e accoglienza sono 4,6 miliardi di euro, quindi lo 0,55% della spesa pubblica. Prima di andare da Francesca Mannocchi, un ascoltatore mi chiede: in Nigeria non c'è la guerra, le milizie fanno raid nazisti nei villaggi, ci sono centinaia di fosse comuni, solo due giorni fa una strage in una chiesa. Allora, il sud della Nigeria, anzi quasi tutta la Nigeria, è fondamentalmente pacifica, non vi sono guerre. Pare che quella strage nel sud sia stato un regolamento di conti per traffico di droga e sarebbe venuto in una chiesa. Discorso diverso è il nord-est della Nigeria, Maiduguri, la zona occupata, quasi liberata da Boko Haram. Però a leggere i numeri di chi arriva dalla Nigeria sono soprattutto le persone dal sud e non dal nord. Chi scappa dalle zone di Boko Haram tende a rimanere attorno, si è rifugiato magari in Chad, magari in Camerun, perché spera molto presto di ritornare appunto a casa propria. Allora, Francesca Mannocchi, giornalista freelance, ha lavorato più volte in Libia. Qual è la situazione dei campi di migranti in Libia? Qual è il ruolo della Guardia Costiera, Francesca? Dunque, la situazione in Libia è molto complessa, molto più complessa rispetto alla narrazione che siamo abituati ad ascoltare. Faccio una rapida sintesi delle divisioni politiche per arrivare poi al potere delle milizie. Dunque, in Libia attualmente ci sono ancora tre governi. Il primo è il governo di Sarraj, cioè quello appoggiato dalla comunità internazionale ed è, diciamo, l'interlocutore privilegiato del nostro governo. Dopodiché c'è il governo di Tripoli, di Hawei, che ovviamente è un governo dissidente, che però esiste e resiste da ormai più di tre anni, e c'è il governo di Tobruk, che è quello, diciamo, il cui uomo forte, più che essere il primo ministro, è il generale Haftar, appoggiato dall'Egitto e dalla Francia. Quindi questa è la situazione politica. Al di là dei tre governi che esistono attualmente in Libia, il potere reale sul campo ce l'hanno le milizie armate. Le centinaia di milizie armate che hanno spartito armi, denaro e potere dopo la caduta di Gheddafi nel 2011. Che cosa significa armi, comando e potere? Significa che le milizie si sono auto-organizzate e diciamo, le milizie più importanti hanno preso il controllo della sicurezza, proprio perché detengono le armi, delle aree strategiche del paese. E per aree strategiche intendiamo gli aeroporti, i porti, ma soprattutto gli impianti petroliferi, che, come noi ben sappiamo, perché il gasdotto Green Stream, che parte da Mellita e arriva in Sicilia, gela, parte appunto da Mellita, che è nella zona occidentale della Libia, è la stessa zona da cui partono i migranti. Diciamo, questi porti che vanno da Tripoli e tutta la parte occidentale del paese, quindi Sabrata, Zawia, fa eccezione Zuara perché c'è stato un movimento popolare negli ultimi due anni che ha fatto sì che praticamente i capi del traffico di uomini di Zuara fossero arrestati, ma parte di loro si sono semplicemente spostati a Sabrata. Quindi, come dire, non è stata una pulizia di una città, non è stato sgominato il fenomeno nelle aree circostanti. Queste milizie sono spesso, ovviamente evito le generalizzazioni perché non fanno bene né in un caso né in un altro, queste milizie spesso sono in accordi economici, ovvero minacciano le guardie costiere libiche. Che cosa significa in soldoni? Significa che viene detto alle guardie costiere, questo lo posso testimoniare per incontri e interviste che io ho fatto sul campo, quindi parlo di cose che ho vissuto. Alle guardie costiere viene detto: o tu fai partire questi gommoni senza avvisare nessuno e senza portarli indietro, oppure io ti ammazzo o ammazzo la tua famiglia, e se li fai passare puoi avere un tornaconto economico, quindi un livello di corruzione altissimo. Ci sono delle zone invece altamente strategiche, come la zona di Zawia, da cui partono non solo tantissimi migranti, c'è una diffusione grande del contrabbando di carburante. La brigata più importante di quella zona, che è la brigata Al-Nasr di Mohamed Kaslaf, che per farvi capire controlla la sicurezza della raffineria della zona, della raffineria di Zawia, I traffici di questa brigata al Nasr sono coperti dal capo della Guardia Costiera dell'area, che si chiama Abdurrahman Milad, nome diciamo in codice Albigia, che è pagato dal governo centrale di Tripoli e con una mano prende i soldi dal governo centrale di Tripoli, con l'altra mano prende i soldi dei traffici, del contrabbando di carburante e del traffico di uomini con la milizia al Nasr. Non solo, ma queste stesse persone, protagoniste di tutti questi traffici, gestiscono il centro di detenzione della zona. Allora, i centri di detenzione in Libia sono di due tipi. I centri di detenzione ufficiali, non mi viene da chiamarli legali perché sì, insomma, non lo sono. I centri di detenzione ufficiali gestiti dal governo di Tripoli, dal Ministero dell'Interno di Tripoli, che sono circa 24, questi più o meno sono i numeri. Ma ci sono una miriade di centri di detenzione illegali gestiti direttamente dalle milizie. Nei centri di detenzione legali che io ho potuto visitare le condizioni sono inumane, e per inumane intendo che non c'è cibo a sufficienza, non c'è acqua, non arrivano le associazioni umanitarie, quindi le persone malate restano malate, ovvero muoiono se sono troppo malate. Gli ufficiali, che non sono ovviamente tutti corrotti, perché io personalmente ho incontrato tantissime brave persone, tantissime persone che mi hanno detto: io vorrei aiutarli ma non posso perché chiamiamo i medici e i medici qui non ci arrivano perché sì, è pericoloso. Contemporaneamente ho incontrato tante persone che lucrano sulla pelle di questi migranti, di questi spesso ragazzini soli, minori e non accompagnati. Vengono requisiti loro i telefoni, le milizie, le persone che lavorano nei centri, d'accordo con le milizie, telefonano alle famiglie in Eritrea, in Nigeria, in Ghana, nei paesi da cui questi migranti arrivano, ricattandoli per ottenere altro denaro, mettendo a rischio la vita dei migranti, che vengono o appunto abusati oppure venduti per lavori forzati nelle zone della Libia. Fra l'altro, Francesca, ti interrompo perché questa dinamica non è assolutamente nuova, perché anche durante il governo Gheddafi apriva e chiudeva i rubinetti dell'immigrazione e fece una leva politica formidabile sul governo Berlusconi per poi ricevere quei famosi aiuti e riparazioni di guerra. Questo per dire che se non si vanno a risolvere le cause più profonde, nel caso della Libia è una grande fragilità del governo, una strapotere delle milizie, un livello di corruzione altissimo, è una assolutamente non gestione del fenomeno migratorio, siamo ancora una volta di fronte a questi fenomeni. Stai con noi, Francesca, perché a noi piace dare i numeri e, visto che ogni tanto si fanno danze di numeri, sentiamo gli sbarchi. Dal 1 gennaio 2017 a oggi, in Europa sono arrivati via mare circa 118.000 migranti, di cui 97.000 sono sbarcati sulle coste italiane, 9.000 in Spagna e 12.000 in Grecia. L'anno scorso, nello stesso periodo, i migranti arrivati in Europa sono stati 256.000, per un totale annuo di 362.700 arrivi. In Italia, nell'ultima settimana, sono sbarcati circa 1.137 migranti, contro i 5.900 dell'anno scorso durante la stessa settimana, con una media giornaliera di 190 sbarchi. Positivi anche i dati annuali, che vedono nel 2017 un totale di 97.000 sbarchi da gennaio ad agosto, contro i quasi 100.000 nello stesso periodo dell'anno scorso, per un totale annuo di 181.000. Le persone che sono arrivate quest'anno in Europa provengono principalmente da Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio e Bangladesh, mentre nel 2016 da Tunisia, Nigeria, Marocco ed Egitto. In Italia, nel 2016, i migranti sono arrivati soprattutto da Nigeria, Gambia, Somalia ed Eritrea. Nel 2017 la Nigeria rimane sempre al primo posto, seguita da Bangladesh, Guinea, Costa d'Avorio e Mali. Allora, questi sono i numeri recentissimi e ci soccorre anche in questa analisi Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Flavio Di Giacomo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, con te, Flavio, diciamo, al di là del dare i numeri, c'è uno degli slogan fondamentali che viene, che si legge sui giornali, sui TG, è che la presenza di prima Mare Nostrum, poi delle navi, dell'ONG, eccetera, si configurerebbe, chiedo scusa, come un pull factor, cioè un fattore di attrazione. Il fatto che vi siano delle persone pronte a salvare i barconi diventa un motivo di attrazione. Guardando i numeri, cosa si può dire, Flavio Di Giacomo? Beh, di questo si parlava tantissimo anche all'epoca di Mare Nostrum, mi ricordo. È una questione che ciclicamente torna fuori. In realtà, quando Mare Nostrum fu fatto terminare dal governo italiano, sia nel dicembre del 2014, nei primi mesi del 2015, da gennaio fino a maggio, tutti si aspettavano, tutti coloro che appoggiavano questa tesi del pull factor, si aspettavano che sarebbero diminuiti gli arrivi. In realtà, finito Mare Nostrum, gli arrivi sono aumentati, mi ricordo soprattutto nei primi mesi dell'anno e ad aprile. Quindi ci fu una dimostrazione veramente empirica che il salvataggio via mare di fatto non rappresenta un pull factor. Perché? Perché i push factor, i fattori di spinta, sono molto più forti di quelli di attrazione, cosa che purtroppo ancora non viene capita da molte persone. A 349-238-6666 c'è Angela da Bologna, fra i tanti messaggi che sto ricevendo, che dice: se la rotta greco-turca è chiusa grazie ai miliardi dati alla Turchia per volere della Germania e dei suoi paesi satellite, quella libica è rimasta l'unica, però Francia e Spagna rifiutano di aprire i loro porti, perché l'Italia deve rimanere l'unica col cerino in mano? Questa è un po' la fotografia sconsolata che dà Angelo da Bologna. Torniamo prima di... no, facciamo una piccola pausa, sì, facciamo una piccola pausa e poi torno da mio ospite. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Stiamo fotografando la Libia, quelli che sono gli interlocutori, per così dire, sul terreno libico, con Francesca Mannocchi, giornalista freelance, lavora per Sky TG24, per Al Jazeera, fra gli altri, e credo in uscita domenica prossima sull'Espresso c'è più strutturata l'inchiesta di cui ci stava facendo menzione prima, questo vizioso intreccio tra milizie, guardia costiera e pezzi del governo. Francesca, fra l'altro, credo tu sia quasi in ripartenza e quindi sì, insomma, continuerai ad occuparti del dossier libico. Siamo anche con Francesco Schiavone, consigliere di ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, e Flavio Di Giacomo di OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che stava spiegando come la presenza, quindi gli aiuti, non sono in realtà, guardando i numeri, attenzione, non sono un pull factor, cioè non sono un fattore attrattivo, perché molto più forte e spingente è il motivo delle partenze, su quelle forse dovremmo un po' di più lavorare. Per Schiavone c'è un SMS che dice: l'articolo della Costituzione italiana che riguarda l'asilo politico non parla di guerra ma di nazioni nelle quali non sono garantite le libertà democratiche o garantite dalla Costituzione italiana, quindi anche se uno viene da Cina o da Cuba ha diritto ad avere asilo politico. Ci aiuta Schiavone a fare un po' una distinzione, perché ci sono varie forme di protezione internazionale, non solo l'asilo politico, che ricordiamo è un diritto individuale, non è che se uno viene da un certo paese allora automaticamente ha diritto all'asilo. Sì, l'analisi delle domande è sempre individuale, e oggi noi parliamo, quando usiamo il concetto di protezione internazionale, in realtà parliamo di due categorie, cioè i rifugiati sotto convenzione di Ginevra, da un lato, cioè una persecuzione diretta e individuale per ragioni appunto politiche, sociali, culturali, di appartenenza a un determinato gruppo sociale, oppure parliamo di una protezione sussidiaria, cioè di persona, una protezione nei confronti di persone che fuggono da una condizione di conflitto armato interno o internazionale. La definizione della Costituzione è molto più ampia, come l'ascoltatore ha osservato, e questo è derivante dalla storia italiana, è interessante, sarebbe molto lungo per parlarne. I padri costituenti vollero una formulazione estrema, che uscivano dal fascismo, volevano effettivamente una formulazione estremamente ampia, che appunto per cui tra l'altro non è soltanto più ampia, ma vorrei ricordare che l'asilo è uno dei pilastri praticamente della nostra Costituzione, uno dei principi fondamentali non modificabili, proprio perché sì, la Repubblica Italiana voleva nascere con la caratteristica di essere una terra di accoglienza. Sì. Francesca Mannocchi, siccome c'è un'ascoltatrice che su Facebook dice: ma quali donne e bambini? Io vedo soltanto giovani uomini ben piantati e ben sani. Io sono stato imbarcato sul Moas, era ormai novembre, dicembre se non erro, e vi erano sì uomini, ma vi erano anche donne, parecchie, e vi erano anche bambini, un bambino partorito appena 2 giorni prima, quindi appena prima dell'imbarco. Proviamo a fotografare meglio quelli che sono... Sì. coloro che partono, che lasciano le coste libiche? Se riesci allora, sinteticamente, che siamo quasi in chiusura. Sì, allora innanzitutto grazie della domanda, perché avrei voluto toccare questo tema Nigeria rispetto alle cose che anche dicevi tu di ritorno da lì. Allora, il tema sfruttamento in Libia è gravissimo. Le donne che partono dalla Nigeria, faccio solo questo come esempio, sono per un'altissima percentuale, Flavio Di Giacomo mi correggerà se sbaglio, vittime di tratta. Il numero delle donne, ragazze, vittime di tratta è più che raddoppiato negli ultimi anni. Vittime di tratta significa destinate alla strada e alla prostituzione. Quello che accade a queste ragazze, sempre più minorenni, ho sentito dei racconti di ragazzine che fanno accapponare la pelle, vengono spesso, che partono inconsapevoli dalla Nigeria, pensando di venire a fare le parrucchiere o di venire a fare le pulizie in Italia, vengono scortate dai loro connection men nelle connection house, cioè in pratica in bordelli libici, dove sono violentate o costrette alla prostituzione, per mesi. Alcune arrivano libate in Italia perché sono destinate alla strada direttamente in Italia. Per molte l'inferno comincia in Libia, appunto nelle connection house, nei bordelli, dove le prime madame le costringono a prostituirsi. Ho incontrato 2 mesi fa una ragazzina di 16 anni che è in Italia oggi in un centro protetto, che è partita dalla Nigeria pensando di venire in Europa, in realtà era diretta in Francia a fare la parrucchiera, è stata 4 mesi in una connection house in Libia ed è stata stuprata anche in gruppo da 5-6 uomini per nottate intere per 4 mesi. Sì, appunto. Fra l'altro il business del traffico delle nigeriane, quando sono stato in Nigeria ho seguito proprio questa storia, Benin City, lo stato di Edo, a numeri impressionanti, perché nel 2015 sono arrivate 5.000 ragazze nigeriane, nel 2016 sono arrivate 11.000, l'85% di queste è destinate alla prostituzione, esatto. L'85% di queste derivano da una sola città, che è evidentemente un grande hub della prostituzione. Non so, Flavio Di Giacomo, sì, dimmi brevemente, Francesca, siamo quasi in chiusura. L'ultima cosa vorrei dire soltanto che queste ragazzine mi hanno raccontato, per dire la narrazione dell'Europa che c'è in questi paesi, che spesso le donne nigeriane che lavorano in Europa tornano indietro magnificando l'Europa per spingere le ragazzine minorenni, giovanissime, poverissime, analfabete a partire. E loro scoprono soltanto quando arrivano in Italia di avere sulle spalle dei debiti che sono debiti di 30, 40, 50 mila euro che devono ripagare prostituendosi. Confermo. Questo rispetto alla narrazione. Confermo. Flavio Di Giacomo, non so se su questo punto vuoi aggiungere qualcosa. Molto spesso le rotte dello smuggling, cioè del contrabbando di migranti, ma anche della tratta, quindi poi con sfruttamento o di lavoro, di prostituzione, coincidono. Il fenomeno ovviamente è grave. E coincidono, sì certo, per quanto concerne i numeri, appunto, le ragazze vittime di tratta, anzi, chiamiamolo così, noi pensiamo, i nostri team antitratta reputano che l'80% delle donne nigeriane che arrivano via mare in Italia siano vittime di tratta, potenziali vittime di tratta. Erano arrivate nel 2014 circa 1.500 ragazze nigeriane, nel 2016, solo dopo 2 anni, 11.000. Sì. Quindi stiamo parlando di un aumento di circa 100%. Sì. Questo dimostra una cosa, chiaramente, che i migranti che fanno il viaggio attraverso il Niger, la Libia, poi arrivano via mare, sono tutte persone che in qualche modo diventano vulnerabili o durante il viaggio o già si sapeva che sarebbero state vulnerabili, perché come nel caso delle vittime di tratta sono trattate già dall'inizio, quindi sono già vittime, perché troppo spesso, purtroppo, nella percezione dell'opinione pubblica la distinzione tra rifugiato e migrante economico, seppur giustissima dal punto di vista del diritto internazionale, sta diventando politicamente una grande scusa per diciamo influenzare l'opinione pubblica e pensare che chi non è rifugiato in realtà è qualcuno che, tanto per citare alcuni nostri politici, bighellona per le strade d'Italia con il cellulare in tasca. E in realtà non è così, perché tutti i migranti che arrivano purtroppo dalla Libia sono migranti che, anche coloro che sono nati come migranti economici, diventano vulnerabili in Libia, diventano vittime di violenze, di abusi, di violazioni dei diritti umani. Noi abbiamo raccolto attraverso la nostra campagna, Where Migrants si chiama, una serie di tantissime testimonianze, direi, video, con delle storie di traumi che veramente sono quasi indicibili. Migranti che ci hanno raccontato di essere stati costretti a seppellire vivi alcuni amici perché si erano feriti lungo il tragitto, i trafficanti li hanno costretti a seppellire gli amici, o migranti che viaggiavano con la moglie incinta che è stata stuprata e poi uccisa a botte, insomma, o donne che vengono violentate di fronte ai propri bambini. Insomma, stiamo parlando di traumi veramente forti. La maggior parte dei migranti che arrivano in questo momento in Italia hanno passato questi traumi. Quindi, dal punto di vista di percezione dell'opinione pubblica, bisognerebbe un po' cambiare la narrazione in qualche modo che viene fatta sui giornali e altrove, per far capire che questo si tratta, che stiamo di fronte a un problema umanitario, non un problema di numeri, perché probabilmente l'avete già detto, i numeri di fatto non sono altissimi. Sì. 0,3% del totale della popolazione italiana arriva ogni anno, quindi sarebbe gestibile a livello italiano ed europeo. Sì. È una crisi umanitaria con tantissima sofferenza che purtroppo non viene percepita nel modo giusto, anzi c'è una sorta di narrazione dell'antimigrazione. Sono molto preoccupato in questo periodo perché anche questo dibattito sul salvataggio in alto mare sta abbassando il nostro livello di solidarietà a livello di opinione pubblica, e quindi siamo veramente in un periodo difficile, forse uno dei periodi più difficili che abbiamo vissuto, io personalmente ho vissuto da quando lavoro in questo settore. Sì. Do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano anche a Giacomo Zandonini, giornalista freelance reduce da una missione in Niger. Perché andiamo in Niger? Perché quella è la grande porta del deserto. Allora Giacomo, purtroppo siamo quasi in chiusura, ma sono stati un sacco di messaggi e temi sul fuoco, sono veramente tanti, e se hai voglia, io ti prego, ti invito già da adesso a ritornare domani, perché raccontare quello che accade in Niger è molto molto importante. Ti chiedo intanto una prima fotografia, non solo di Agadez, ma di questo paese che, citando un amico ricercatore, è un po' la chiave di violino di quello che accade per tutto ciò che riguarda l'immigrazione e l'Africa subsahariana. Raccontaci meglio del ruolo di questo paese, di Agadez in particolare. Sì, certo, innanzitutto grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori. Il Niger, come dicevi Giampaolo, è un luogo chiave. Oggi chi arriva verso la Libia e poi in parte cerca comunque di arrivare in Italia via mare da tutta l'Africa occidentale, quindi una ventina di paesi possiamo dire, questa macro regione, passa tendenzialmente dal Niger. È un cammino che si è aperto da molti anni. Il Niger è uno stato in gran parte desertico, quindi insomma le carovane sono nella memoria e nella tradizione di dei popoli del Sahara, e da un ventennio è diventato anche un transito più consistente, dopo la guerra in Libia ancora di più. Ecco, il grosso cambiamento che c'è stato nell'ultimo anno è che il passaggio di migranti è diventato sempre più invisibile. Se fino all'estate 2016 i migranti, insomma, avveniva tutto alla luce del sole, le persone arrivavano da Agadez, quest'ultima città alle porte del Sahara, e da lì poi si mettevano in contatto con degli autisti che li portavano nel sud della Libia o addirittura fino a Tripoli. Quello che succede oggi, che c'è una nuova legge che è stata adottata nel 2015 ma poi realmente implementata dal settembre 2016, che rende comunque, diciamo, punisce il trasporto di persone attraverso i confini. Sì. Il confine in qualche modo è stato arretrato fino ad Agadez, che è a oltre 1000 chilometri, però dicendo meglio cercare di intercettare le persone prima che partano per... Chiaro, intanto mi sa che è caduta la linea, ma sta scadendo anche il tempo. Giacomo Zandonini ci stava iniziando a parlare dell'importanza di questo paese che è un crocevia, ma io direi che già da domani torneremo su questo tema, perché intanto ho valanghe di sms a cui rispondere, alcune domande sono puntuali e meritano assolutamente una risposta. Allora dobbiamo chiudere i titoli di coda, non prima di aver ringraziato Gianfranco Schiavone, Francesca Mannocchi, Flavio Di Giacomo, grazie mille per essere stati con noi. Titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tale e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me anche questa puntata, Gianmarco Ferronato e le sue pennellate musicali. Voi per essere stati all'ascolto, noi ci risentiamo questa sera con la replica alle ore 20, domattina alle ore 6, sempre la replica, e poi domani in diretta, ore 16, di nuovo Nessun Luogo Solo Lontano. Vi anticipo, riparleremo ancora di immigrazione perché troppe domande meritano una risposta. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.